Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di famiglie patriarcali e in particolare del rapporto tra padri e figli. Vi presento due libri oggi. Il primo si intitola appunto Padri, una piccola grande famiglia milanese attraversa il Novecento. È un romanzo, il primo romanzo di Marco Pogliani, che è un imprenditore, un manager nel ramo della comunicazione, che si cimenta con questa prima riuscita prova narrativa. Il libro pubblicato da Mondadori, 274 pagine, 18,50 €. L'autore racconta delle ultime generazioni della propria famiglia, milanesissima, cattolicissima, laboriosissima, benedetta, si sarebbe detto una volta, da ben 16 figli nella generazione alla quale apparteneva appunto il padre dell'autore. E di questi 16 fratelli, il padre, appunto Mario, è quello che riesce meglio nella vita, accodandosi dopo la guerra a un personaggio affascinante, il conte, che ne apprezza una capacità, quella, dice, di comprendere la sua visione, di vibrare con lui, di realizzare per lui. Ed è proprio la scomparsa del padre a spingere Pogliani a ricostruire il rapporto con quella figura e con la sua famiglia, rafforzando i propri legami con la città che l'ha vista crescere. Lo stile letterario del libro è particolare, con frasi brevi, incisive, lunghi elenchi impaginati come se fossero delle lapide, frequenti rimandi tra l'oggi e l'ieri. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Marco Pogliani. Buongiorno a tutti. Allora, Marco Pogliani, in questa famiglia Pogliani ci sono, nella generazione di suo padre, 16 fratelli, un microcosmo, neanche tanto micro, di Milano. Che cosa impersonava questa famiglia Pogliani della città di allora? Ma questa famiglia Pogliani impersonificava una grande tradizione del lavoro. Erano tutti uniti da certamente una condizione economica non particolarmente brillante, ma che comunque era la condizione economica di quegli anni. Ed era la convinzione che la vita andasse conquistata giorno per giorno col proprio lavoro e con la capacità di condividere quelli che erano uno stile di vita, un modo di stare insieme. E infatti suo padre Mario è quello che forse meglio interpreta questa voglia di cambiamento e di avanzamento. A un certo punto addirittura si trova contento di essere disoccupato perché si individua così come un uomo libero. Sì, lui era l'ultimo, la condizione dell'ultimo, specialmente tra 16, è quello di dover rincorrere, no? una situazione. Lui questa cosa l'ha interpretata tutta la vita e l'ha interpretata forse prima della guerra, raggiungendo la condizione, diciamo così, impiegatizia, ma come dire, lottando un po' contro quello che era una condizione nella quale tutti gli dicevano che essendo lui l'ultimo, essendo fortunato, lui doveva accontentarsi. Lui non si è mai accontentato. E in questa cosa poi nel dopoguerra l'ha portato a così avere dei percorsi che gli hanno consentito poi di inventare sempre qualcosa di nuovo in un paese che stava cercando la sua strada. E nella sua resistenza alla condizione impiegatizia Mario dice di non accettare alcune regole che sembravano intangibili. Lei scrive: un dirigente non può toccare un tavolino, altrimenti salta tutto, l'ordine, il senso, il sistema. Quindi Milano era anche una città d'ordine, però. Milano è una città di tradizione austriaca, nel senso che l'ordine fa parte delle grandi organizzazioni, ma l'ordine è proprio fatto perché ci siano poi quelli che ne hanno la possibilità e la voglia, che vadano contro quest'ordine rischiando in proprio, ma per cercare di fare qualcosa di nuovo che poi deve far avanzare tutto il sistema. Ecco, questo qualcosa di nuovo esplode nell'Italia del miracolo, che lei a un certo punto definisce come una stagione di carta. In che senso? Ma è una stagione di carta nel senso che è stata una stagione difficilmente ripetibile per tanti motivi. Certamente una delle condizioni per cui questa cosa potesse essere ripetibile, e non è detto che il grande sistema lo volesse, è proprio una generazione di uomini che fossero disposti a rischiare, che fossero disposti a mettere ogni giorno il proprio destino in mano alle proprie idee. E a contrapposizione di questo invece c'è stata un'altra generazione di persone le quali ha ritenuto che invece il destino a cui si dovesse arrivare era un destino nel quale il rischio non fosse più la parola d'ordine. Ecco, la grande protagonista del libro assieme alla famiglia Pogliani è Milano, e ne abbiamo già parlato, e emerge questa capacità di attaccamento al lavoro. C'è quell'episodio del Natale in cui il padre l'accompagnava a vedere come si facevano i pacchettini con la stessa qualità e la stessa grazia anche alla sera della vigilia di Natale, quando ormai tutti scappavano a casa, proprio per sottolineare che a Milano si fa in scia a lavorare. Sì, ed è questa Milano che, lungi dal volersi celebrare, lungi dal volersi essere capitale, lungi dal voler invidiare qualcosa, ha sempre trovato in questa sua laboriosità la capacità di reinventarsi. Quindi da una parte c'è la come si diceva anche prima, la metodicità, il metodo, l'affezione, dall'altra questa straordinaria voglia di far bene, il proprio mestiere, che vuol dire per le persone più umili o per le persone che non sono chiamate avere questa applicazione che minuto per minuto continua a essere, per chi è più dotato la responsabilità anche di guardare avanti. E questo dinamismo, Milano è un dinamismo fatto appunto di persone che sanno stare al loro posto e persone che non vogliono stare al loro posto, è questo che ha espresso sempre i momenti migliori di questa città. Nel libro lei parla poi delle sue esperienze lavorative, quelle contemporanee che magari la portano fuori Milano a Roma, parla del rapporto con la casa dell'energia nella quale si scontrano due mondi, c'è un vero e proprio scontro generazionale, ma anche due Italie che si scontrano. Questo mi pare anche un ritratto dell'Italia di oggi che lei ha vissuto nel suo rapporto. Sì, è un rapporto un po' dei i lombardi, che in qualche modo anche figli di una certa ingenuità o di una certa genuinità hanno cercato di portare un elemento di innovazione nel paese, forse non comprendendo sempre la vera natura poi degli equilibri di questo paese. Noi forse l'abbiamo fatta un po' facile. E certamente nel rapporto con le grandi aziende pubbliche abbiamo portato un elemento di innovazione, forse una certa stagione di privatizzazioni hanno senz'altro contribuito a innovare questo paese, ma forse hanno tolto qualcosa lo stesso, insomma. In questo rapporto professionale c'è anche a un certo punto un giro d'Italia che lei fa per ragioni di lavoro e che la porta a scrivere a conclusione di questo capitolo che c'è ancora un paese che vuole rimanere nel suo passato, ci vorrà pazienza e dedizione. Troppo ancorati al passato, quindi siamo ancora. Ma questo è una costante, anche mio padre doveva combattere contro quelli che volevano che il corridoio rimanesse l'unica dimensione della vita. Certamente noi siamo un paese che fa fatica a stare al passo con il resto del mondo, abbiamo avuto le nostre possibilità, abbiamo avuto le nostre Olivetti, abbiamo avuto le nostre Fiat, abbiamo avuto tutte aziende che potevano combattere, però ecco, forse sono mancati dei Mario Pogliani, i quali a un certo punto continuassero a coltivare la cultura del rischio invece quella del posto fisso, insomma. Ecco, questa cultura del rischio Mario Pogliani l'ha vissuta coltivandola con una virtù che poi le ha trasmesso in eredità, scrivendole una lettera, e cioè l'umiltà. Che cosa rappresenta quindi l'umiltà per questo genere di persone? Ma l'umiltà vuol dire che non esiste rischio senza il senso del limite, e cioè se uno ha la percezione che esista un limite, che è un limite anche personale, ma che è un limite dell'esistenza, che è un limite anche della capacità della finanza di cambiare le regole della vita, eccetera, ecco, di fronte a questo limite ha un senso il rischio, e da qui nasce l'umiltà, perché l'umiltà è proprio quella di rendersi conto che comunque non possiamo tutto, nella vita non è possibile tutto, ma è possibile forzare i limiti di qualcosa nel quale uno si deve riconoscere. E questa è la raccomandazione più forte che mio padre mi ha sempre fatto. Grazie a Marco Pogliani, autore di Padri. Buona domenica. Grazie. L'altro rapporto filiale lo troviamo nel libro di Marcello Sorgi, Le sconfitte non contano, è pubblicato da Rizzoli, 252 pagine, 18 euro. Qui si parla del padre Nino, che dopo il fortunoso rientro a Palermo dalla guerra diventa avvocato e si scontra col sistema di potere colluso con la mafia. Nino Sorgi diventa un protagonista importante ed è il più significativo dei processi politici di quell'epoca, è impegnato politicamente, amico della migliore intelligenza di quegli anni e convinto della buona fede delle proprie battaglie a sinistra, perché spiega alla fine del libro al figlio Marcello, per l'appunto le sconfitte non contano, anzi servono ugualmente a cambiare le cose, scrive Sorgi, come le idee segnano sempre il solco della storia, riconoscerle è una prova di intelligenza, non il segno di una resa. Per esempio una prova di questa intelligenza è data dall'ammissione che il capitalismo, contro il quale aveva combattuto da giovane, alla fine da vicino, scrive appunto il vecchio padre, non è più tutto da rigettare. Parlo del capitalismo come adesso, molto diverso da quello feudale che ci trovavamo a combattere nel dopoguerra. E il libro rappresenta dunque una testimonianza importante del clima di quell'epoca, di cui vi propongo un brano relativo all'incontro con Claudia Cardinale, scesa in Sicilia per girare il film tratto da uno dei capolavori di Sciascia, Il giorno della civetta. Nell'estate del 68, Damiano Damiani girava con Claudia Cardinale Il giorno della civetta, tratto dal libro di Leonardo Sciascia. Erano trascorsi diversi anni dal Gattopardo. La maturità, se possibile, aveva reso ancora più bella l'attrice. Si era sistemata in un albergo sul mare, proprio vicino casa nostra, e veniva spesso a trovarci. Il suo incontro con lo scrittore, noto per la sua timidezza, non era infatti stato sufficiente a darle l'ispirazione per il personaggio di Rosa Nicolosi, la donna, protagonista del romanzo, che subisce il sequestro del marito da parte della mafia. Così la sera si sedeva in terrazza con papà e lo interrogava, con la sua voce seducente e arrochita dal fumo. Lui rispondeva a tutte le sue curiosità in modo pedagogico e razionale, aiutandosi con piccoli gesti delle mani. «Non si trattava di diventare esperta di cose di mafia», le diceva. Piuttosto le consigliava: «Immagina i possibili stati d'animo di una giovane donna siciliana, fino a quel momento ignara, davanti alla quale si spalanca tutti insieme un abisso di violenza e di sopraffazione che la costringe alla consapevolezza». Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso vi propongo un personaggio femminile. Parliamo appunto di una signora Robinson, non quella famosissima di Simon & Garfunkel del film di Mike Nichols, ma una signora più vecchia di 100 anni, inglese, questa, protagonista di un singolare libro a metà tra la narrativa e la storia, di un'autrice appunto inglese, Kate Summerscale, che si intitola La rovina di Mrs. Robinson, storia segreta di una donna vittoriana, in audio, 266 pagine, 19 euro, tradotto da Ada Arduini. La signora Robinson, nata Hamilton Walker, si sposa in seconde nozze con appunto il signor Robinson, un signore avido, freddo e gretto, l'unione col quale sarà particolarmente infelice. Nel 1858 la Robinson si trovò al centro di uno scandalo perché fu una delle prime donne a essere coinvolte in un caso di divorzio. L'Inghilterra aveva appena introdotto il divorzio anche per le classi medie e appunto il marito cita la moglie per farsi pronunciare il divorzio e porta come prova della infedeltà della donna una manifestazione molto strana, cioè il diario della donna. Le aveva sequestrato il diario che Mrs. Robinson teneva, a quell'epoca addirittura anche le carte delle donne appartenevano al marito, e esibisce queste carte in tribunale per dimostrare dalle pagine che aveva scritto, pagine in certi casi un po' lascive, soprattutto per i gusti e per la sensibilità dell'epoca, per dimostrare come la signora Robinson l'avesse tradito, almeno sul diario, innamorandosi di un medico che frequentava, un medico innovatore che aveva introdotto delle cure basate soprattutto sulle acque. Tutto sembra procedere fino alla pronuncia del divorzio, il caso sembra abbastanza semplice, fin quando i difensori del presunto amante della donna, il medico del quale volevano far dichiarare l'onorabilità proprio per non rovinargli la carriera, fecero riconoscere la signora Robinson come affetta da particolari turbe psichiche che avrebbero trovato appunto espressione in quelle pagine del diario che, ripeto, per l'epoca vittoriana erano pruriginose fino alla inverosimiglianza. È bello di questo libro il doppio registro fra la storia e la narrazione e anche la descrizione del clima positivista dell'epoca. Troviamo passeggiare spesso in queste pagine per esempio Charles Darwin, troviamo gli studi frenologici dell'epoca secondo i quali la conformazione facciale denotava caratteristiche come nel caso delle donne l'amatività, le teorie sul nesso tra libertà di pensiero e libertà dell'amore. La stessa signora Robinson era una libera pensatrice, non credeva in Dio e non nascondeva queste sue convinzioni. E qui vi propongo una testimonianza sul significato di quel diario e sull'impatto che quella vicenda ebbe sulla società vittoriana, tratta dalle ultime righe del libro della Summerscale. In tribunale il valore del diario di Isabella rimase dubbio. Come ogni altro libro dello stesso genere, oltre che di ricordi, era fatto anche di aspettative. Era provvisorio e instabile. Si situava al confine tra pensiero e azione, desiderio e realtà. Ma come cruda testimonianza emotiva, era un'opera che lasciava attoniti, che poteva destare entusiasmo o allarme. Il diario diede ai suoi lettori vittoriani un'immagine del futuro, come offre a noi un'immagine del nostro mondo plasmato sul passato. Sicuramente non ci dice ciò che accadde nella vita di Isabella, ma ci dice ciò che lei desiderava. Il diario dipingeva un ritratto delle libertà a cui le donne avrebbero potuto aspirare se avessero rinunciato a credere in Dio e nel matrimonio. Il diritto ad avere delle proprietà e del denaro, a ottenere la custodia dei figli, a sperimentare dal punto di vista sessuale e intellettuale. Accennava anche al dolore e alla confusione che queste libertà avrebbero generato nel decennio in cui la Chiesa rinunciò al proprio controllo sul matrimonio e Darwin gettò nel dubbio più profondo le origini spirituali dell'umanità. Quel diario era un segno dei tumulti che si sarebbero verificati. Per la cronaca, il divorzio non venne concesso. A proposito di Darwin, che abbiamo incontrato poco fa nel libro della signora Robinson, del grande scienziato inglese, Einaudi pubblica Lettere sulla religione. Sono curate da Telmo Pievani, 124 pagine, 9 euro, e sono tradotte da Isabella Blum. Questa è una selezione di lettere spesso inedite in Italia per esaminare appunto i rapporti di Darwin con la religione e le sue idee sul rapporto tra scienza e fede. A un certo punto, per esempio, scrive nel 1860 che mi è sempre sembrato che per un creatore onnipotente e onnisciente prevedere sia lo stesso che preordinare, ma poi, quando ci penso, mi ritrovo alle prese con un problema imbarazzante, per certi versi analogo a quelli riguardanti necessità e libero arbitrio, l'origine del male o altri temi simili, completamente al di fuori della portata dell'intelletto umano. Ultimi arrivi. Oggi titoli dedicati all'attualità, la notizia del giorno naturalmente è la rielezione di Giorgio Napolitano, e allora per salutarlo e per dirgli in bocca al lupo e buon lavoro segnalo il libro di Paolo Franchi, che è un giornalista famoso che ha avuto lunghe frequentazioni professionali e politiche con Giorgio Napolitano, che ha scritto il libro Giorgio Napolitano, la traversata da botteghe oscure al Quirinale, pubblicato da Rizzoli, 426 pagine, 18 euro. Troviamo qui la carriera di un grande protagonista della politica italiana, la cui carriera appunto ha avuto ieri ancora una nuova svolta con la rielezione, la prima nella storia al Quirinale, quindi buon lavoro Presidente. L'altro libro legato all'attualità di questi giorni è quello di uno storico, Sergio Luzzatto. Il libro si intitola Partigia, una storia della resistenza, che ricorderemo tra pochi giorni, il 25 aprile. Il libro è pubblicato da Mondadori, 374 pagine, 19,50 euro. Questa è una particolare storia della resistenza italiana condotta attraverso l'esperienza di Primo Levi, per il quale l'autore dichiara di nutrire devozione civile e venerazione letteraria. Poi vi presento alcuni libri di nomi celebri. Il primo è Jorge Bergoglio, che ha scritto con Abraham Sciorca Il cielo e la terra, pubblicato da Mondadori, 212 pagine, 9,90 euro. Il libro è curato da Diego Rosenberg. Il sottotitolo recita Il pensiero di Papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della Chiesa nel XXI secolo. Un pensiero appunto ricavato dalle riflessioni con questo pensatore ebraico. E su Bergoglio invece vi segnalo Papa Francesco, il Papa e le sfide, di un giornalista del gruppo delle Paoline, Saverio Gaeta, è pubblicato da San Paolo, 142 pagine, 9,90 euro. Qui troviamo la vita del nuovo pontefice, un'antologia di alcuni suoi pensieri su alcuni temi e alla fine un capitolo sulle 10 sfide che dovrà affrontare nel corso del suo pontificato. Un altro grande giornalista è Pierluigi Battista, che si cimenta con la narrativa con La fine del giorno, Rizzoli, 164 pagine, 16 euro. Libro dedicato al rapporto nella vita tra morte e sesso, e che esplode nell'esperienza del protagonista per la malattia della compagna. Umberto Veronesi ci presenta invece il libro La dieta del digiuno, perdere peso e prevenire le malattie con la restrizione calorica, è pubblicato ancora da Mondadori, 138 pagine, 15,90 euro, curato da Maria Giovanna Luini e Lucilla Titta, una guida per vivere meglio mangiando meno. E infine il nome di un'attrice famosa, Serena Dandini, che ha pubblicato anche un romanzo, Ferite a morte, pubblicato da Rizzoli, 15,220 euro, un libro che racconta delle storie di femminicidio, una parola, dice l'autrice, che non le piace, Scrive, infatti, molti storcono il naso davanti a questo termine. Certo, se ne possono trovare altri più aggraziati o pertinenti, chiamiamolo pure come ci pare, ma almeno affrontiamo il dramma per quello che è, senza far finta che non esista, attitudine sempre in voga nel nostro paese. E a questo punto... Il confettino. A proposito di donne e di donne speciali, vi propongo di Giovanna Calvino e Marina Sagona, che è l'illustratrice, il libro La strega dentro di me, pubblicato da Mondadori, 13 euro. Questa è una strega che vive come un alter ego con e nella protagonista, aprendole gli occhi, spesso tormentandola e alla fine trovando un modo di convivere con la fanciulla. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.